Sono Isabella Bossi Federigotti. Mio papà era il custode di Malga Palazzo, nel senso che la Malga e i terreni, i boschi appartenevano a suo cognato Oswald Trapp, che era sovrintendente per il Tirolo dei beni artistici, storici e artistici, e di natura e animali. Pastorizia, al peggio non capiva niente, in più stava a Innsbruck e non qui. E mio padre se ne occupava con un ardore e una passione perché era un grande cacciatore. Non era uno di quei cacciatori che sparano su tutto, devo precisare, erano di quei cacciatori che esistono ancora, ovviamente esistono ancora, che amano gli animali, paradossalmente, e che comunque aspettava per ore e ore, andava a cercarli, si alzava la mattina alle 3 per sorprenderli, camminava, infatti è arrivato vecchio, molto in forma proprio per le sue grandissime camminate. E allora lui andava periodicamente, saliva periodicamente alla Malga Palazzo, che era appunto, come dice la parola, era una malga fortificata, collegata, si pensa, almeno così ci raccontavano, non so cosa ci dice la storia, collegata a Castelbeseno come ultimo baluardo di fuga per gli abitanti.